Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? È atipico questo inizio, ritornando subito con la nostra rassegna stampa culturale che inizia con la presentazione e la pubblicazione del nuovo libro di Sabrina Leonelli, che già abbiamo conosciuto nel 2014. E qua al telefono con noi, intanto ne approfitto per dare il buongiorno a Sabrina. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno, bentrovata a te e a tutti i radioascoltatori. Sono passati 10 anni, quindi insomma è da un po' che il Breakfast Club ti segue per quanto riguarda i tuoi lavori. È stato un attimo però, Sabrina, o quasi. Ma in realtà non pensavo fosse passato tanto tempo, esatto. Ma devo dirti la verità che è quasi una cabala, perché parto sempre da te che mi porti fortuna. Dai. E quindi apro proprio sempre così le mie presentazioni. Dai, allora chi ben comincia. Oggi abbiamo iniziato in maniera un po' saltellante con il CD, con il freddo che mi ha portato una bronchite improvvisa, però con un buon libro decisamente. Abbiamo motivo di conversazione, di approfondimento e di ritrovarci. Sabrina Leonelli, l'abbiamo conosciuta con Alex sta dormendo, era il 2014, altri lavori riportati al Breakfast Club nel Voltiamo Pagina, adesso per aprire i magazine con Alice dei Boschi. Guarda, sarò banale e immediato, nonché primitivo, ma a me è venuta immediatamente la mia favola preferita sin da bambino, altro che 10 anni indietro, qua bisogna andare più indietro, che era Alice nel Paese delle Meraviglie. Però non voglio così portare il ricordo personale e rubarti degli spazi, ma piuttosto parlami di Alice dei Boschi. Di chi si tratta? Chi è Alice, Sabrina? Beh, allora, innanzitutto effettivamente questo passaggio io non l'avevo fatto, ma Alice nel Paese delle Meraviglie effettivamente è un'esperienza interiore, è un percorso, un cammino, e potrebbe quasi, senza, non ho certo velleità di equipararmi a quel grande testo, però davvero può essere uno spunto, perché anche la mia Alice dei Boschi è un'Alice che in realtà è, il nome trae proprio spunto da un'amica che mi ha raccontato a un certo punto della nostra conoscenza, un po' surreale e strana, delle sue avventure, insomma, di vita, e questo è stato per me lo spunto proprio per contestualizzare una storia che dei boschi ovviamente ha radici, perché poi è ambientato in gran parte a Grizzana Morandi. Ma questa Alice è una ragazza che per dei talenti speciali, perché ha una grandissima capacità di fare conti matematici, e viene scoperta e diventa poi in un certo modo una groupier, e quindi parte del romanzo è ambientata, e anche la storia d'amore che nascerà, su una nave da crociera. Ah, quindi lei ha un gran talento per la matematica, una gran memoria, abilità nel far di conto, per cui trova lavoro come croupier, giustamente, perché sai che è un mondo stranissimo quello, pensa che, ma immagino che ti sei preparata per portare questo lavoro, c'è una sostituzione per quanto riguarda la direzione che controlla con delle telecamere, almeno a Las Vegas, nei posti, ma penso che sia così un po' ovunque. Io non sono mai entrato in un casinò in vita mia e ne sono ben felice, anzi, e c'è una sostituzione quando un croupier ha dei giocatori di fronte a sé che stanno vincendo, il croupier viene sostituito, perché vuol dire che in quel momento è un po' in difficoltà e non è lucidissimo, per cui è un lavoro veramente molto molto particolare, sì. Nonché anche da avere un po' paura, sinceramente, sì, per quanto riguarda. No. Ma infatti è un mondo molto spregiudicato, e questo affiancamento, adesso l'ho detto un po' velocemente, ma è un affiancamento proprio tra un vissuto che è quello del nostro Appennino, questa ragazza che vive in una casa famiglia, quindi viene scoperta per caso da un parroco, perché mentre è a tavola e conversa con i commensali continua a fare conti con una velocità impressionante, quindi è un talento che lui scopre, riconosce, e quindi attraverso alcuni percorsi la porta a fare appunto questo cammino, questa carriera, è anche molto giovane, e davvero lì c'è, si coniuga con questo mondo dove davvero ci sono delle centrali di controllo, sì. No? Che controllano proprio come perché i clienti non possono vincere, c'è no. proprio una percentuale, anche nelle slot machine, me lo raccontava mio figlio nei giorni scorsi, una percentuale di vincita che è proprio tarata e assolutamente quella, per cui cioè, gira che te rigira, tu non puoi arrivare più del 65% di quanto hai versato come acquisizione, quindi estremamente affascinante come logica. Quindi siamo alleati, oltre che in tante cose, perché lo so che siamo alleati in tante cose e ne sono fiero, siamo alleati anche contro la ludopatia. Ma scherzi, ma assolutamente. Anzi, ti dirò adesso, mi dai sempre degli assist per parlare in gergo cestistico. Che tu ben conosci. E i miei libri, soprattutto le storie d'amore, ma in generale tutte, ma anche questo, sono alla fine dei pretesti per poter parlare di altro o comunque per soffiare fuori qualche messaggio, qualche intuizione che alcuni colgono, alcuni vestono diversamente, quindi mi piace proprio, a seconda anche del periodo che io vivo e che, nel periodo in cui io scrivo, assorbire un po' quello che mi circonda e buttarlo lì un po' così alla rinfusa, delle volte in maniera ovviamente tra le righe, perché la storia è un'altra, esatto. E quindi al lavoro che va a portare Sabrina, come potete ben intuire, vi è spazio per approfondimento importante e sociale, e nello stesso tempo la singolarità di questa ragazza, la Grizzana Morandi, con un talento per la matematica e il calcolo veramente importante, che si ritrova impegnata sulle navi da crociera come croupier. All'interno di questo, poi tu mi correggerai, vi è la storia d'amore e vi è anche intrigo? Chiedo, punto di domanda. Ma è un minimo sì, anche se ovviamente non ha un taglio certo. di giallo, ma assolutamente sì, perché questo ragazzo particolare che a un certo punto lei incontra, che ha un vissuto particolare simile al suo, perché le fragilità delle volte si incontrano, ma le fragilità molto spesso poi presuppongono una crescita e un rafforzarsi che porta in realtà invece ad acquisire, no, la capacità di potersi muovere comunque nel mondo, anche se si è partiti da situazioni un pochino più difficili rispetto ad altre. Si incontreranno, lui a un certo punto scomparirà e lei dovrà sostanzialmente ricercarlo, ma soprattutto comprendere se si è trattato di un flash, di qualche cosa così, di un'attrazione, o invece di una unione di anime, di qualcosa di più profondo, per cui si sono parlati a livelli diversi di quelli, insomma, materiali. A mie spese posso mettere a disposizione del pubblico uno dei tuoi libri, che potranno avere attraverso un quiz che a breve manderò in frequenza, e poi al 333-180-9494 la possibilità di avere il lavoro di Sabrina Leonelli, Alice dei Boschi. Mi dai questa opportunità e dai questa opportunità al pubblico, Sabrina? Assolutamente sì, ma fornendolo io l'opera mi fa molto piacere che venga letto, conosciuto, diffuso, e quindi sarà mia premura farti arrivare la copia. Grazie di cuore, puoi restare anche in diretta ancora un po' dopo questo brano per continuare la nostra piacevole conversazione? Puoi restare in diretta, Sabrina? Era una domanda, faccio... no? Sì, l'ho posta male. Punto esclamativo, assolutamente sì. A tra poco. Ciao, ciao, ciao. Don't laugh and never give her down. If I could. Allora, su questa voce aulica io vi propongo il quiz. Siamo nei boschi, Alice dei Boschi, anche la famosa Alice nel Paese delle Meraviglie parte questo viaggio attraverso un bosco, del resto, dove incontra dei personaggi stranissimi. Toperchio, questo topolino terrorizzato anche solo dalla parola serpente, e impazziva, schizzava di qua e di là. Per calmarlo bisognava mettere al topolino un po' di marmellata sul naso, dopodiché il leprotto bisestile e poi il cappellaio matto, e la stessa Alice che si ritrova a una festa stranissima ma bellissima. E da piccolo quante volte avrei desiderato poter partecipare a una festa del genere. È una festa, ogni festa ha un tema, però ha una ricorrenza. Io chiedo a voi: in quale occasione si sono ritrovati questi personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie? Era una festa in occasione di un buon... dite voi, appunto, concludete il nome di questa stranissima ricorrenza, ma che se vogliamo è un po' tutti i giorni tranne uno per noi, ed è un buon... chiedo a voi la risposta per avere Alice dei Boschi e arricchire la vostra biblioteca al 333-180-9494. Intanto vediamo, o sentiamo per meglio dire, se Sabrina Leonelli è ancora in diretta con noi. Pronto, ci sei? Ci sono. Mi è venuta in mente questa particolarità, insomma. Stanno già arrivando le risposte, guarda. E leggo velocemente, guarda, vi prego di firmare i messaggi. Quanti buon non compleanno che stanno arrivando. Vediamo. Ecco, scusate. Mamma mia, questa tosse è devastante, però sono ben contento. Adesso do poi anche il premio in questo caso. Mi piacerebbe dare anche dei premi di consolazione, perché state partecipando veramente in tanti. E sono contento per Sabrina, cara amica del Breakfast Club, anche mia cara amica, appassionata lettrice oltre che scrittrice. Cosa stai leggendo, Sabrina? Sto leggendo un libro che mi sta piacendo da morire, La donna che rubava i mariti di Margaret Atwood. E io lo dico con enfasi, perché trovo un libro che mi appassiona ogni anno e mezzo da divorarlo, e sono quasi 600 pagine, quindi insomma bisogna proprio che l'incipit sia folle per poterti dare la pazienza di arrivare in fondo. No, ma Margaret Atwood secondo me è da scoprire anche nei suoi lavori, diciamo, meno conosciuti. Per me il primo libro, che per me è un capolavoro di Margaret Atwood, che è La donna da mangiare, che è meraviglioso. Comunque vabbè, questa piccola divagazione, perché abbiamo anche la passione per quanto riguarda la lettura. Alice dei Boschi, Sabrina Leonelli, non abbiamo detto da chi è stato portato, appunto, qual è la casa editrice. Assolutamente, allora innanzitutto si colloca all'interno della collana R come Romance, quindi stiamo parlando delle edizioni del Loggione. E approfitto per salutare i miei grandi e adorati editori, che sono Katia Brentani e Massimo Casarini. Bene, questo abbiamo così dato e completato la formazione per il lavoro. E è il tuo libro numero, Sabrina? Non per Ma essere... vi posso fare una confessione in diretta? Vai! Mi sono sbagliata dalla fretta e ho scritto dietro nella quarta di copertina quinto, ma in realtà è il sesto, e questo mi fa pensare che io abbia voluto creare un personaggio che amava i numeri, perché io non so fare più 2 più 2. Non sappiamo fare i conti. No, ma infatti se uno legge bene vede che sono già comunque 5 più questo fa 6, quindi chiedo scusa per la mia pessima capacità di fare calcoli matematici. Ed è anche spero per che quello. La mia Alice mi nobiliti. Esatto, spero che anche per quello ci dia la possibilità, oltre che di una buona lettura, anche di essere illuminati appena un attimo in ambito matematico. Alice dei Boschi, Sabrina Leonelli, questa protagonista che da Grizzana si ritrova con un talento immenso nel calcolo, sulle navi da crociera come croupier, e troverà percorsi assolutamente così particolari per quanto riguarda la sua stessa crescita e la sua vita. Del resto, Sabrina, siamo sempre in movimento, numeri o non numeri, è così, c'è poco da fare. fare. E alle 8.02 minuti io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione. E dove si può trovare per avere, oltre che per il Breakfast Club, però certamente ci sarà una diffusione editoriale, ci puoi dare qualche indicazione? Allora, guarda, si possono trovare direttamente sul sito dell'editore, che non ha nessuna spesa di spedizione, in formato digitale, o si possono ordinare, insomma, sono disponibili in tutti gli ebook store. Ok, io ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona giornata e ovviamente a presto avremo modo di risentirci. Del resto siamo sempre in contatto. Grazie ancora. Grazie. Buon lunedì, buona settimana. Anche a voi, anche a te, grazie mille dell'ospitalità. Un ciao, abbraccione. A te, ciao. Allora, do il buongiorno a Lino, oltre che ringraziare nuovamente Sabrina Leonelli. Buongiorno Lino, che sta ancora scrivendo, evidentemente ci tiene molto e ci teniamo anche noi. Grazie, grazie Lino. Poi arriva in questo podio, medaglia di bronzo e terza posizione, Federica. Intanto la risposta è esatta per tutti e tre. È il buon non compleanno, quello che si trovano a festeggiare Toperso, il Protto Bisestile, il Cappellaio Matto e Alice che incappa lì. A un certo punto chiedono ad Alice un po' di tè e qualcuno prima di lei risponde sì, mezza tazzina, e non è mezza tazzina riempita appunto dal liquido, dall'infuso, viene tagliata a metà in maniera verticale. Questo da piccolo, quando ho visto quell'immagine lì, ho detto ok, è il mio. Un aspetto totalmente fuori. Festa non compleanno di Paola, grazie Paola, un buon non compleanno a tutte e a tutti voi, a meno che non sia il vostro compleanno, in quel caso gli auguri arrivano puntuali dal Breakfast Club, ma in questo caso è un buon non compleanno. E il vincitore è, e se lo merita perché da un po' che ci prova e non arriva mai alla prima posizione, questa volta arrivato, è Luigi, è la festa di non compleanno, quindi grazie Luigi, grazie a tutte e a tutti voi, riprovateci comunque perché mercoledì abbiamo il Voltiamo Pari anche con Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi, per cui doppia possibilità. Per Luigi da mercoledì il libro sarà a tua disposizione alla libreria Ubik in Via Nerio 27 a Bologna, così uniamo tutti i vincitori. Abbiamo delle idee anche di book crossing, ringraziando Paola, ringraziando Dino, ascoltatrici e ascoltatori già campioni del Voltiamo Pagina, e perché no aggiungiamo anche i magazine. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, si procede con la nostra rassegna stampa culturale. In conclusione ci sarà un ascoltato per voi a proposito del concerto di ieri sera al Torione, protagonista Ronnie Foster. A tra poco, buon ascolto.